L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera e ben ritrovati in una nuova puntata dell'Altro Pianeta che dedichiamo con piacere al cinema ambientale. Lo facciamo perché è in corso a Torino la 16ª edizione di Cinema Ambiente, diretto da Gaetano Capizzi, organizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino. È stato inaugurato questo festival venerdì scorso, l'edizione 2013, con The Fruit Hunters, un film del regista Jung Chang, protagonista Bill Pullman, ospite d'eccezione tra l'altro della serata di apertura. L'attore è quello di Independence Day, per dirne uno, ed è ormai tra le numerose star di Hollywood che sono scese sul terreno dell'attivismo ambientale. Il film narra il viaggio dei cacciatori di frutta in via d'estinzione, ecco qui il titolo, quindi Fruit Hunter, cacciatori di frutta che si muovono dalle giungle del Borneo alle colline dell'Umbria attraverso la cultura, la storia, la geografia, per mostrare come la vita dell'uomo sia in relazione con quello che mangia, in particolare con i frutti che mangia, e perché la conservazione della biodiversità sia importante. A mango is always a negotiation, it's a love story. Richard, go. When you're in the boughs of a mango tree, it's like being in your mother's arms. I don't know why they call this ice cream bean. I think they should really call it cotton candy bean. Yeah. Ecco, questo un passaggio del trailer del film in inglese, ma questo è accaduto venerdì scorso. Ci saranno magari altre occasioni per vedere questo film, che tra l'altro fa venire il languorino dopo poche inquadrature di questi meravigliosi frutti tropicali. Se guardiamo invece a quello che accadrà nei prossimi giorni, ecco, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, che è il 5 di giugno, ci sarà l'anteprima italiana di More Than Honey di Marcus Imhoff, un documentario che porta lo spettatore alla scoperta del mondo delle api. Ascolta. Can you hear that? Lo senti questo? That's the sound of money. È il ronzio del denaro. Fresh. Il rumore delle banconote stampate di fresco. Trees and trees. Api e mandorle. Nice. Magnifico. Allora, signorine, come state oggi? Siete molto occupate. Fa caldo, il sole splende. Una vecchia zitella, una mandorla che ha resistito allo scuotitore. È rimasta qui. Deliziosa. Senza api, un terzo di tutto ciò che mangiamo non ci sarebbe. Mio nonno mi rivelò un segreto. Tutte le piante colorate e profumate vengono impollinate dagli insetti, quelle poco appariscenti e aride invece dal vento. Anche qui si narra di un viaggio durante il quale si incontrano i coltivatori di mandorle della California, un apicoltore di montagna svizzero, un neuroscienziato tedesco che studia il cervello delle api, un commerciante di polline in Cina, questo giusto per dire qualcuno dei personaggi tra virgolette, e poi si parla anche delle api assassine che invadono il nuovo mondo. Il capo dei pompieri di Lakeville, tra i primi a giungere sul posto dell'incidente, non ha capito subito di che natura fosse la nuvola sul luogo del dramma. C'era una grande nuvola nera intorno a noi. Non avevo mai visto nulla di simile. Non sapeva di stare attraversando uno sciame di api. E dopo essere stato punto parecchie volte al volto, dà ordine alle sue squadre di indossare delle tute protettive. Dal 2004 negli Stati Uniti sono 14 le persone morte per l'attacco delle api assassine. Sono api sfuggite a un allevamento sperimentale in Brasile, emigrate in America Centrale e in Messico. Pare che lungo il loro cammino abbiano ucciso un centinaio di persone, acquistando la triste fama di insetti killer. Le api assassine sono un incrocio tra l'ape europea e quella africana. Il nome esatto è Apis mellifera africanizzata. È questo delle api un tema di cui ci siamo già occupati in passato in questa trasmissione, ma ce ne siamo occupati di recente anche nei nostri GR Europa, quelli in onda dal lunedì al venerdì, poiché della moria delle api che si registra da anni su tutto il pianeta e delle cause di questa moria si discute molto, non solo a livello scientifico ma anche a livello politico. Tant'è che per quel che riguarda l'Unione Europea, la scorsa settimana, dopo una lunga battaglia, la Commissione ha deciso uno stop dal prossimo 1° dicembre e per 2 anni all'uso di 3 pesticidi appartenenti alla famiglia dei neonicotinoidi sospetti colpevoli della moria di api. La Commissione Europea ha deciso autonomamente, perché attorno alla proposta di moratoria del Commissario Europeo per la Salute e Politica dei Consumatori, Tonio Borg, non si era delineata né una maggioranza di Stati membri a favore né una maggioranza di Stati contrari. E tra l'altro ci sono stati anche diversi cambi di fronte, ad esempio l'Italia, che pure già dal 2008 mette al bando alcuni neonicotinoidi, si era pronunciata contro la moratoria di Borg, giudicando eccessive alcune delle restrizioni sui pesticidi che erano state proposte. La Germania invece ha fatto il percorso inverso, quindi è passata da posizioni negative a un voto a favore. Ma, come dicevamo, non ci sono certezze, tant'è che la Commissione ha previsto con questa moratoria anche l'attuazione di studi di sorveglianza sulle api, il cofinanziamento di programmi nazionali, la designazione di un laboratorio di riferimento europeo per la loro salute. La questione delle api non è da poco, non stiamo parlando soltanto della produzione di miele, ma stiamo parlando dell'impollinazione delle piante, che quasi nell'80% dei casi avviene attraverso e grazie alle api. Anche per questo apprendiamo dal film di cui stiamo parlando, in realtà More Than Honey, che è in proiezione a Torino, anche per questo c'è chi pensa di salvare le api sviluppando una nuova razza che abbia maggiori possibilità di sopravvivenza. Presso l'Università dell'Australia Occidentale, mia figlia e mio genero svolgono delle ricerche sul sistema immunitario delle api. In segno di benvenuto, hanno bruciato la mia tuta da apicoltore, perché avrebbe potuto essere contaminata da germi patogeni contratti durante il viaggio. Perché qui vivono le ultime api sane, in questo continente senza acaro varroa. No, i maschi non pungono. Guarda, il papà ne prende uno e non succede nulla. È un'ape mamma? No, è un'ape papà. Le regine domestiche vengono fecondate con lo sperma di api selvatiche. Per escludere il rischio che avvenga quanto è successo in Brasile, le api ibride vengono trasportate su un'isola deserta. Sull'isola saranno sottoposte a uno stress test. Se i risultati saranno positivi, verranno ancora allevate, forse anche per il mercato mondiale. Ma potrebbe succedere che una volta sull'isola nascano delle api Frankenstein. Se dovesse accadere, non potranno nuocere a nessuno, visto che il continente è troppo lontano. Forse le api sul continente si ammaleranno e solo queste sull'isola resteranno sane. E allora io saprò di aver visto l'Arca di Noè. Ci fermiamo qui con il film perché non vogliamo svelare troppo. Vi ricordo che è in programmazione, proiezione il 5 di giugno al Cinema Ambiente di Torino, 16ª edizione. Restiamo al Cinema Ambiente, restiamo in tema di api, ma andiamo a un cortometraggio dal titolo Api di città, per la regia di Alessandro Rocca e Davide De Michelis. A Tokyo, a Parigi, a New York, a Londra, da tempo gruppi di cittadini hanno cominciato a darsi alla apicoltura, anche perché paradossalmente, come abbiamo appreso dal film di cui abbiamo parlato prima, sembra che la sopravvivenza delle api sia più facile nelle città con tutti i loro fumi e il loro inquinamento che nelle campagne coltivate intensivamente. Le api in città sono un fenomeno poco diffuso in Italia, ma esiste anche qui e se ne parla in questo cortometraggio. Alcuni centri abitati, anche grandi città come Torino, tornano ad ospitare specie che per lungo tempo sono state confinate in aree lontane dall'uomo. Questa è la storia di Antonio Barletta, che ha conosciuto le api quando aveva più di 30 anni e se ne è innamorato, tanto da volerle portare il più possibile vicino a casa sua. E questa è la storia di Davide Lobue, anche lui innamorato delle api, tanto da volersi impegnare per farle conoscere anche alle nuove generazioni. Ecco, noi abbiamo scelto la Via delle Api per presentarvi il Cinema Ambiente di Torino. Ci sono ovviamente invece molte altre possibilità. Trovate tutto, anche i film di Eco Kids, quindi quelli dedicati ai ragazzi, sul sito cinemaambiente.it. A questo punto siamo in chiusura, il tempo stringe. Abbiamo giusto così un minuto da dedicare a un richiamo. La prossima settimana si vota per i ballottaggi in molte città italiane. Mettete a confronto le posizioni dei candidati della vostra città. Valutate se e quanto promettono di impegnarsi per l'ambiente e la sostenibilità delle vostre città, perché è lì che poi dopo vivremo con o senza api. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora, l'altro pianeta @radio24.it.